Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva presa, poiché aveva sposato una donna etiope. Dissero: «Solo con Mosè ha dunque parlato il Signore. Non ha forse parlato anche con noi?» Il Signore sentì. Or Mosè era l'uomo più umile di tutti gli uomini che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse subito a Mosè, Aronne e Maria: «Uscite tutti e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutti e tre. Il Signore scese sulla colonna di nuvola e si tenne all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. Ambedue si fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate bene la mia parola. Se aveste un profeta del Signore, mi farei conoscere a lui in visione, parlerei a lui in sogno. Ma non così con il mio servo Mosè. In tutta la mia casa egli è il più fedele. Parlo a lui a bocca, in visione e non in enigmi. Egli contempla l'immagine del Signore. Perché, dunque, non avete temuto di parlare contro il mio servo Mosè?» L'ira del Signore divampò contro di loro, ed egli se ne andò. La nuvola si allontanò dalla tenda, ed ecco, Maria era diventata lebbrosa, bianca come la neve. Aronne si voltò verso Maria, ed ecco, era lebbrosa. Aronne disse a Mosè: «Ahimè, mio signore, non porre su di noi la pena del peccato che abbiamo insensatamente commesso. Essa non sia come un morto all'uscita dal grembo di sua madre, per metà divorato nella sua carne». Mosè gridò verso il Signore: «O Dio, te ne prego, guariscila!» Il Signore disse a Mosè: «Se suo padre le sputasse in viso, non sarebbe forse nella vergogna per 7 giorni? Sia isolata 7 giorni fuori dall'accampamento, e dopo sia accolta». Maria fu isolata fuori dell'accampamento 7 giorni, e il popolo non partì fino a quando Maria non fu accolta. Dopodiché il popolo partì da Caserot e posero l'accampamento nel deserto di Paran.